voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Guido Berlucchi, 50 anni, di bollicine italiane. Di Giovanni Savarese. I vini a basso prezzo vengono prodotti in tutto il mondo, quindi è inutile andare a mettersi in un cosiddetto oceano rosso, come qualche specialista di marketing chiama, ma bisogna stare nell'oceano blu, cioè quello dove bisogna essere top di gamma e di qualità. La Guido Berlucchi & Company S.P.A. ha sede a Borgonato, provincia di Brescia, cuore della Franciacorta. La data ufficiale di nascita coincide con l'anno di produzione, il 1961, della prima bottiglia di Pinot di Franciacorta. Da quelle 3.000 bottiglie iniziali, oggi la Guido Berlucchi è arrivata a produrne circa 4 milioni all'anno ed è considerata l'azienda pioniera delle bollicine nel nostro paese. Con un fatturato 2009 di oltre 40 milioni di euro, l'azienda detiene il 26% delle quote del mercato dei vini metodo classico in Italia. Fondata da Guido Berlucchi, Franco Zigliani e Giorgio Lanciani, l'azienda è oggi guidata dalla famiglia Zigliani. Alla presidenza il fondatore Franco. Al suo fianco, come vicepresidente e responsabile di produzione, ricerca e sviluppo, il figlio Arturo, che ci racconta di quell'incontro, 50 anni fa, da cui iniziò tutto. L'incontro quasi fortuito tra Guido Berlucchi e mio papà, Franco Zigliani, un incontro di due giovani, perché mio papà aveva 24-25 anni, Guido Berlucchi ne aveva 3 o 4 in più, e un incontro in cui Guido Berlucchi cercava un tecnico che potesse aiutarlo a imbottigliare il suo vino bianco e rosso, e un sogno invece che mio papà gli buttò lì sul tavolo, quello di fare una bottiglia di bollicine che potesse un po', non dico essere in concorrenza con lo champagne, ma essere l'alternativa italiana allo champagne. L'entusiasmo, la passione di entrambi, unite poi a quelle di Giorgio Lanciani che si unì nell'avventura, fecero in modo che questa azienda nacque appunto 50 anni fa, ufficialmente, anzi tra un anno compiamo appunto 50 anni, nel 1961 fu proprio l'anno in cui si ufficializzò la nascita dell'azienda, con queste pochissime bottiglie, le 3.000 bottiglie, di un vino prodotto in una zona che si chiama Franciacorta, con il metodo classico, quindi la prima bottiglia di metodo classico della zona, che chiamarono appunto Pinot di Franciacorta. La storia quindi di un incontro, dell'inizio di un percorso lungo mezzo secolo, seguendo un'intuizione di sicuro originale, produrre bollicine. Ma non solo, anche la storia di scelte oggi comprensibili, allora più che pionieristiche. Ma diciamo che il motore vero, a parte appunto l'entusiasmo e la passione che sono elementi fondamentali per il successo di un'azienda, furono anche, credo, due cose. La prima, quella di concentrarsi sulla produzione di un prodotto specifico, senza divagare in altri prodotti, e tant'è che oggi la Franciacorta, anche oggi stesso, punta a concentrarsi su un prodotto, cioè sulle bollicine. E poi, importantissimo, oggi lo chiamano marketing, ma in realtà allora non esisteva, ma era l'approccio che Guido Berlucchi, Franco Zigliani e Giorgio Lanciani avevano verso il consumatore, tra virgolette, l'approccio diretto, quindi la visita in cantina, la conoscenza del metodo, la spiegazione a chi magari allora non era appassionato ma scopriva qualcosa di nuovo, e questo fatto diede impulso all'azienda. E oggi tutte le aziende vitivinicole hanno come, diciamo, fattore fondamentale anche la visita diretta del cliente in azienda. Il gruppo Berlucchi è cresciuto nel tempo, acquisendo altri settori di attività. Una seconda azienda vitivinicola specializzata in Franciacorta, una terza in Toscana per i rossi, ristorazione e alberghi. Sì, in effetti la Guido Berlucchi è un gruppo composto da altre realtà, che sono un'altra azienda vitivinicola dedicata alla Franciacorta, che si chiama Antica Fratta. È una piccola azienda in una cantina che risale al 1700, molto bella, con delle gallerie scavate nella roccia, particolare a forma di pi greco, quindi una forma strana ma interessante. È un'azienda che produce circa 250.000 bottiglie di Franciacorta. Poi abbiamo un'azienda invece un po' al di fuori del nostro cosiddetto core business, che è un'azienda di rossi, di vini rossi in Toscana, per esattezza a Bolgheri, si chiama Caccia al Piano questa azienda, una piccola azienda di 20 ettari dove produciamo un rosso molto importante, anzi due vini rossi molto importanti, molto corposi, di struttura, vini adatti ad essere bevuti con piatti piuttosto pesanti e saporiti, e una terza attività che è quella della ristorazione degli alberghi. Abbiamo un albergo qui in Franciacorta che si chiama Relais Franciacorta, dove è molto, diciamo, dedicato a convegni, meeting di lavoro, e è molto interessante perché oggi c'è questa tendenza, ricerca a svolgere i meeting e le riunioni di lavoro in zone viticole, in cantine, quindi diciamo si unisce il lavoro dei coloro che si incontrano per questo meeting, gli si, diciamo, addolcisce la pillola anche con la visita in cantina e la visita dell'azienda. La Guido Berlucchi può essere a buon titolo inserita nella lista delle aziende che rappresentano l'Italia nel mondo. Le bottiglie Berlucchi sono già presenti infatti in molti paesi europei e non solo. Se i tedeschi apprezzano da tempo le bollicine, i giapponesi le hanno scoperte di recente e il loro interesse è in crescita. Sì, diciamo che ci sono paesi che rispondono anche più facilmente agli impulsi che diamo noi nella commercializzazione dei nostri prodotti all'estero, che sono i paesi più vicini all'Italia. Per esempio la Germania è un paese che, tra virgolette, tira bene come dal punto di vista di commercializzazione dei nostri prodotti, l'Inghilterra anche molto bene, paesi tra l'altro abituati anche a bere vini cosiddetti spumanti, paesi come il Belgio anche va bene, la Svizzera molto vicina a noi, soprattutto la parte ticinese, e un paese anche lontano interessantissimo è il Giappone. In Giappone andiamo molto bene, probabilmente c'è una sorta di feeling fra i cibi giapponesi e le bollicine, quindi c'è un abbinamento interessante. E gli Stati Uniti sono ovviamente un paese interessantissimo, ma devo dire, bisogna ammetterlo, abbastanza difficile da affrontare, prima di tutto dal punto di vista economico, perché per arrivare al consumatore americano bisogna fare tanti passaggi e per cui i prezzi dei nostri prodotti arrivano veramente a dei livelli esorbitanti, ma ci stiamo lavorando. La Franciacorta, terra di origini per la Guido Berlucchi, un rapporto, come detto, con 50 anni di storia, da quella bottiglia di Pinot di Franciacorta nel 1961 che per prima recò sull'etichetta il nome della zona ormai rinomata per le bollicine. E qual è oggi il rapporto tra Berlucchi e il suo territorio di nascita, inteso non solo come luogo fisico ma anche come insieme di produttori? Dunque, il rapporto con la Franciacorta è un rapporto fraterno, diciamo così. Noi siamo nati in Franciacorta, l'abbiamo un pochettino fatta nascere, poi ci sono state aziende importanti che l'hanno sviluppata sotto il profilo dell'immagine e dei prodotti. Oggi il rapporto tra Berlucchi e la Franciacorta è un rapporto bellissimo, perché, cioè, a parte il fatto che siamo molto coesi, noi produttori, anzi il motto, il payoff si dice, della Franciacorta è unione di passioni, e questo è bellissimo perché in un territorio così piccolo come la Franciacorta, che in realtà sono solo 2000 e qualche centinaia di ettari rispetto a altre zone, è abbastanza piccolo, i produttori sono un centinaio, 120, 130, ma sono molto uniti, e questo è importantissimo perché io ritengo che una zona possa crescere soprattutto con l'unione dei produttori. Se tutti remano, diciamo, verso lo stesso porto, si arriva prima. E la Berlucchi vorrebbe essere, almeno la vedo così personalmente, un pochettino, scusate forse la presunzione, la mamma di tutta la Franciacorta, quella che aiuta tutti, con le capacità di distribuzione anche che ha la Berlucchi, a diffondere il marchio Franciacorta non solo in tutta Italia, cosa che ancora adesso non è così conosciuto, ma anche all'estero. Della Guido Berlucchi si è parlato anche in occasione della vendemmia di quest'anno per la tecnologia, in particolare per un piccolo velivolo telecomandato che, grazie a telecamere a infrarossi, controlla lo stato di salute e di maturazione delle uve, consentendo quella che viene definita agricoltura di precisione. Azienda ad alto tasso di tecnologia, ma non fine a se stessa. Strumento anzi per portare avanti al meglio la tradizione vitivinicola. La tecnologia è un mezzo per poter mettere in pratica il pensiero dell'uomo, cioè le conoscenze scientifiche sono messe in atto e aiutate da alcuni mezzi. Sì, ricordo che questa vicenda dell'elicottero ha avuto molto scalpore, ma in realtà l'elicottero è un mezzo. E il discorso della fotografia aerea non è tanto l'elicottero che gira sui vigneti, ma è proprio cercare di avere un aiuto dall'alto, proprio dall'alto, dello stato di salute di un vigneto. Quindi questo ha permesso di fare delle valutazioni e di poter vinificare, per esempio, separatamente alcune frazioni di vigneti a pezzamento, di poter raccogliere in tempo nel migliore, alla data ottimale di vendemmia. E le altre cose sì, sono le presse, ovviamente sono un aiuto, ma perché derivano da dei concetti fondamentali, quello per esempio del frazionamento dei mosti, che è uno dei capisaldi della vinificazione in Franciacorta. È proprio, addirittura noi abbiamo un regolamento interno, non il disciplinare, ma un altro regolamento molto più severo del disciplinare, che fa sì che i produttori debbano produrre in un certo modo, e quindi con questo frazionamento dei mosti per permettere di ottenere dei mosti di grande qualità. Berlucchi come simbolo di italianità, di qualità del nostro paese, tanto che le Poste Italiane hanno deciso di recente di inserire l'azienda Franciacortina nei simboli italiani per eccellenza, i francobolli. Berlucchi ha anche avuto la fortuna, diciamo, di avere avuto l'occasione di incontrare un ente italiano importante, che sono le Poste Italiane, che ci hanno dedicato un francobollo. Quindi questo è successo poche settimane fa. Poste Italiane ha emesso 4 milioni di francobolli con l'immagine della Berlucchi. Quindi per la prima volta un'azienda vitivinicola ha avuto questo privilegio di essere su un francobollo. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.